Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Oh, buonasera a tutti da Stefano Dainese. Siamo in ritardo di 10 minuti. È la maledizione del Jack. Allora, il Jack è lo spinotto in italiano e capita anche nelle migliori famiglie. Una volta andai in un concerto molto grande, non faccio il nome, ma insomma, e ritardarono di mezz'ora perché c'era un ronzio, non riuscivano a toglierlo, erano in 50. E quindi i musicisti lo sanno, abbiamo dei musicisti qua per suonare dal vivo, e ci sono i folletti dentro questi cavetti maledetti che ogni tanto fanno i loro rumori, i loro versi, e è una maledizione, insomma, riuscire a capire da dove viene. Poi magari basta girarlo, basta mettersi in una certa posizione e miracolosamente sparisce, almeno questo è quello che speriamo. Quindi scusate il ritardo dovuto a ragioni tecniche, come si dice in questi casi. Inizia Rock Wave Live, abbiamo un grande ritorno nel nostro studio. Io devo ammetterlo, pensavo fosse passato circa un anno, invece sono 2 anni e mezzo per la serie Il Tempo Vola, e abbiamo di nuovo con noi, ritorna nei nostri studi, Mary Cutruffello. Welcome back, Mary. Thank you. Ciao, Stefano. How are you? Oh, you know I'm fine. Sì, stiamo tutti bene quando abbiamo musica dal vivo. La differenza rispetto all'altro passaggio di Mary nei nostri studi, quando venne da sola con la sua chitarra, è che questa sera è accompagnata da Andrea Lupi, una nostra vecchia conoscenza. Benvenuto anche a te, Andrea. Ciao, Stefano. Buonasera a tutti. Andrea è specializzato ormai nel suonare. Come molti bassisti è un freelance, cioè lui va, accompagna, segue, e quando si tratta di musicisti stranieri fa anche un po', diciamo, da chaperon, nel senso che tu scherzi, ma gli stranieri spesso mi dicono che sono terrorizzati a guidare in Italia, preferiscono avere un locale che ci considerano tutti dei criminali sulla strada. Poi naturalmente il basso, il Fender di Andrea, aggiungerà un'ulteriore ricchezza alla musica di Mary, e quindi rispetto all'altra esperienza avremo modo di ascoltare delle cose diverse. E dico subito che questa sera, un po' anche perché abbiamo cominciato in ritardo, ma perché per chi volesse così un po' di notizie, informazioni sulla storia di Mary, sul passato eccetera, c'è sempre la possibilità di scaricare il podcast dal nostro sito della vecchia trasmissione, quindi evitiamo di ripeterci, e invece ci sarà tanta musica. I'm saying that there will be a lot of music tonight, sì. Because we made all the talk about the past last time, we don't need to tell them again. Ma c'era 2 anni fa. Sì, yes, sì, appunto, dice, sono passati 2 anni. But I just told that I thought it was less than 1 year ago. Allora, quindi cominciamo subito con la musica dal vivo. Mary Cutruffello e Andrea Lupi ci suoneranno American Rain, sì, per cominciare questa serata. Buon ascolto a tutti, siamo dal vivo qui su Blu Radio Veneto. 1, 2, 3, 4. I was born in the land of plenty, grew up in the land of dreams. I never had to work for nothing, it was all laid out for me. I had everything I wanted, I never wanted another too much, and my heart would not be broken, no, my soul, it would not be touched. Now I walk down these suburban streets alone, as the dark clouds rise before me. Hey, I'm a rock, I'm almost crowding the American rain, in the American rain. Yeah, give me something to be sure of, yeah, season for my pain, and a reason to remain in the American rain. Yeah, Well, I guess I go to college. Ain't got nothing better to do. Get me out of this town at least for a year or two. Yeah, there's a big old world waiting, so they say. But I know it don't matter if I leave or if I stay in the American red. Hey, hey, hey, hey. In the American red. Hey, hey, hey, hey. Yeah, give us something to be sure of. Oh, a season for my pain. And a reason to remain in the American rain. Hold me, baby. Hold me, baby. I feel I'm fading away. Hold me, baby, hold me, baby. Now you're losing me at a fail. Like I'm on fail. I got I'm on fail. Yeah, yeah, yeah. Yeah, give me something to be sure of, yeah. Season for my pain. Any reason to remain in the American rain. In the American rain. Yeah, in the American rain. Baby, in the American rain. Yeah. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, questa era American Rain dal vivo. C'è stato un momento in cui lo spinotto. Ma naturalmente lo spinotto, quello diciamo sfigato, diciamo in italiano, va sempre al bassista. Sempre, che, sempre. Il bassista, the bass player is the underdog of the band, right? È una vocazione. Una vocazione alla sofferenza. No, come mi spiace, purtroppo abbiamo stiamo cercando di fare il meglio possibile, ma quando succedono queste cose, proprio nel momento in cui si è dal vivo, vabbè, insomma, bisogna un attimo sopportare, ecco, un po' di sfortuna può succedere. Allora, ho riascoltato la trasmissione di 2 anni fa, non me la ricordavo tutta a memoria, e Mary mi aveva detto che dopo la nostra trasmissione sarebbe andata a suonare e a esibirsi, non so bene, a fare una cosa dentro una scuola. E non sapevo come era andata, so che l'avete rifatto anche oggi. Last time you came here, you told me that you were going to go in high school the day after. Yes. And I didn't know how that went after all. But you did it again this very morning. So I would like to know how was it? Well, both shows were great. It was the same place in Trento. Yes. It was an assembly for the kids who are learning English. Good. And they wanted to bring in some people who speak English with an American accent and know a little bit about American culture. Si è detto, è la stessa scuola dove è tornata a Trento. Questi sono i vantaggi di stare in una provincia autonoma, probabilmente. È una scuola di lingua, appunto, dove cioè, vengono radunate diverse classi quando succedono questi happening, diciamo, e volevano avere una persona che parlasse inglese con l'accento americano e che raccontasse un po' riguardo alla vita negli Stati Uniti. So they wanted to get in touch with the real things. Sì, and they both of my parents were teachers, so I enjoy talking to kids and explaining something that I know really well. Sì, detto, entrambi i genitori di Mary sono insegnanti, quindi lei si è molto divertita a fare qualcosa che fa parte un po' della sua vita, diciamo. Sì. Curiosità per sapere il livello delle nostre scuole, chiedo se i ragazzi capivano tutto quello che diceva. Just to know about, you know, how our school are doing right now. Did the kids understand everything you said? I hope so. Spero di sì. Did you get feedback? Yes, avuto reazioni? I think they understood almost everything, maybe everything. You know, they're kids, so then they sometimes they listen and sometimes they don't. È difficile dirlo, sono ragazzi, quindi a volte ascoltano, a volte no, a seconda dell'estro, del momento, insomma. Sì, but I could see that there were many that were interested in what it's like to live in America, and it's difficult when you sing, even if you speak the language, it's hard to understand what someone is singing. Yeah. So I tried to explain the songs, and hopefully they could understand that, and at least get a sense of what I'm writing about, if not the words in the songs. Yeah. Si dice che volevano sapere appunto come si vive un po' negli Stati Uniti, appunto da una persona che fa una vita normale, perché Mary non è una musicista a tempo pieno, e poi appunto lei si rendeva conto della difficoltà che si ha nel seguire il testo di una canzone, anche se conosci magari un po' la lingua, e quindi cercava di spiegare prima il significato del testo, in modo da facilitare ai ragazzi la comprensione. Comunque io trovo che questa sia una cosa veramente notevole, nel senso, per uno studente un'ora così, due ore con una persona come Mary o come chiunque altro che arrivi, diciamo, dalla vita reale del paese di cui loro stanno cercando di imparare la lingua, ha un'efficacia dal punto di vista dell'imparare assolutamente incomparabile rispetto al solito libro o quelle assurde cassette con, adesso non ci saranno più, ci saranno i file, io ricordo, ma con quei discorsi artefatti e falsi che poi quando vai nel paese vero nessuno fa, nessuno dice realmente. Allora adesso ci ascoltiamo un brano da un album di qualche anno fa di Mary, che si intitola 35. Il titolo del pezzo è If You Don't Want Me No More, e poi torneremo qui in studio per parlare con lei, per ascoltarla ancora cantare dal vivo. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. If You Don't Want Me No More, questo era un brano appunto in studio dall'album 35. E, avete sentito Mary alla chitarra elettrica, perché lei non, sì, non ha bisogno di assumere altri chitarristi, fa tutto da sola, homemade guitar playing, ma veramente molto molto tirata, very, very strong guitar playing. Grazie. Speriamo sempre che riesca un giorno a venire con l'intera band, che sarebbe il massimo. You are still hoping that one day you will come with the full band. I know it's complicated. It is very complicated. Even in America, it's anche complicated in America to play with the band. But I hope soon. Yeah, ho visto che ha un tour adesso. I saw that you will have a tour in May in the US. Yes. So hopefully it will happen also on the other side of the ocean. So speriamo che succeda anche dall'altro lato dell'oceano. Mary è in tour in Italia in questi giorni, appunto oggi c'è questa giornata di, non vorrei chiamarla vacanza, perché alla fine suonate più oggi che gli altri giorni, perché un po' a scuola, un po' qua, insomma c'è parecchio lavoro, però poi ci sono diverse date. Adesso non so se Andrea magari ti ricordi, domani siamo a Milano a Nedaba Theater, e poi abbiamo un giorno di stop, dopodiché abbiamo Pavia da Trapani, dopodiché... Come da Trapani? Da Trapani è un ristorante... Ah, il nome del posto, sì, da posto Trapani. Si chiama da Trapani, è strano, però pare che sia un posto che c'ha una buona storia di musica alle spalle. Poi abbiamo un concerto privato a Bergamo, in un teatro però privato, quindi una cosa veramente chic. Poi abbiamo sabato al teatro comunale di Dozza, che è vicino Imola, e poi chiudiamo domenica a Piombino. Ah, vicino a casa tua, insomma. Sì, relativamente vicino. Comodo a casa, insomma, dai. Comunque si sta bene a Piombino. Sì, sì, lo so, ci sono stato. Ed è già una settimana che siete in giro, quindi insomma sì. Per Mary è un bel giro in Italia. Però, stavamo parlando prima, non è ancora riuscita ad andare a suonare in Sicilia. Saying that you still didn't have any chance to play in Sicily, so you must come back for that. Devi tornare per la Sicilia, perché lei è stata adottata da una siciliana, da una coppia, sì. Sua mamma è siciliana, e io trovo veramente bellissima questa cosa, perché ho visto la sua pagina Facebook, lei pubblica le fotografie che a casa, a Minneapolis, che è un posto dove fa un freddo orribile, lei fa la caponata. E perché no? Yeah, so you bring the Sicily sun to Minneapolis, yes. Porta il sole della Sicilia, sì. A Minneapolis, è una cosa, è bello appunto vedere che queste, dentro una famiglia si mantengono anche le tradizioni, no? Perché si tiene un filo conduttore che è proprio una tradizione familiare. It's really, really touching that you do this. I mean it. Bene, adesso ci suona un altro pezzo, che è un brano preso sempre da 35. The next song you play is still from 35, then we will be talking about the new record. Dopo parleremo anche del disco più recente che ha portato qui, sì. Questa canzone si intitola, what's the title? It's Panhandle Wind. Panhandle Wind. Allora, dal vivo Mary Cutrufello e Andrea Lupi, buon ascolto. Pain. I heard so many others trying to make it right again, but it didn't do nothing. Or nothing gained. And faithless heart has driven me away from every man who cared enough to try to point the way to something better. Yeah, that brighter day. Thank you. UFOs on the ground. And the leaves are falling down. Lonely ways, my emptiness to fill. So I'll walk the streets of these Nebraska towns until I find my reasons. And I'm searching, babe. I'm searching, stay, yeah, yeah, yeah. Blu Radio, Blu Radio, SMS 346 2320 033. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. E questa era Panhandle Wind, dal vivo qui nei nostri studi. Vi ricordo che questa è Rock Wave, abbiamo in studio Mariko Truffello, accompagnata da Andrea Lupi. E l'altra volta che Mary è stata nostra ospite, parlavamo del fatto che nella sua musica ci sono molte influenze country, che è una cosa un po' inusuale, perché lei è una tipologia, diciamo, di persona che è un po' lontana dalla musica country, con i suoi dreadlocks. Tutti quelli che la vedono per strada pensano che sia un'appassionata di musica reggae, fondamentalmente. Sì, sì. Però invece è cresciuta, ha vissuto anche in Texas, è cresciuta ascoltando molta musica country. E questo suo nuovo mini album, che si intitola Fireflies Till They're Gone, è un ritorno alla musica country. So you said that you come back to the country music with this new recording. Sì. So how did that happen? Come mai hai deciso questa mossa? Well, I lived in Texas in the 90s, and I grew up on the East Coast near New York City, and country is not a part of the music in New York. In that part of America. But I discovered it, and I moved to Texas to learn it. And I spent a few years doing that, and then I started to play rock and roll again. And so then there was both country and rock in my soul at that point. Si dice, lei è nata vicino a New York, poi dove la musica country non si ascolta fondamentalmente, però la scoperta, voleva approfondire la conoscenza di questo genere musicale, quindi si è trasferita in Texas proprio per quello. E poi con il suo disco d'esordio era tornata al rock, ma queste due anime hanno sempre convissuto dentro in lei. Sì, e dopo questo, nel 2004... I had some problems with my vocal cords, and I didn't sing for almost a year and a half. And when I started to sing again, my voice had changed, and I found that the old country songs sounded better now with the new voice than I could ever make them sound with the old voice. Sì, nel 2004 ho avuto un problema con le corde vocali, e per quasi un anno e mezzo non ha potuto cantare. Quando ha ricominciato, ha scoperto che la sua voce era cambiata, e con la nuova tonalità le canzoni country che aveva scritto in precedenza suonavano molto meglio, cioè la sua voce si adattava di più a questo genere, a questa costruzione sonora. Sì, so I said I have to make a record with my beautiful new voice. Sì, a quel punto ho pensato, devo fare un disco che si accordi con questa mia nuova bella voce. And this is it. E questo è il disco. Ma è che poi è un mini, sono solo sei canzoni, esattamente come il precedente EP acustico che ne era solo cinque. It's just six record songs. Was it made on purpose? You wanted to be more concentrate? Kind of. I had six songs that I thought worked really well together. They're all very slow and mellow. It's a record for the end of the night, for the last cigarette. And so I thought, well, I don't need 45 minutes of the last cigarette. I think 25 is enough. Sì, ha detto, aveva sei canzoni tutte molto, molto lente, molto notturne e che stavano bene insieme. È un disco da ascoltare a notte fonda, diciamo. È un disco per l'ultima sigaretta prima di andare a dormire. E ha detto, vai, per una sigaretta 20 minuti, 25 minuti basta, non avanza, inutile fare 45 minuti per fumare l'ultima sigaretta. Che parte mezzo pacchetto subito. Abbiamo la voce dell'esperto qui, lui parla con cognizione di causa, Andrea, quindi possiamo affidarci della tua opinione sicuramente. Purtroppo. No, comunque trovo anche giusta questa cosa, perché c'è un po' la tendenza a tirarla un po' per le lunghe in molti casi. Adesso molti musicisti si sono accorti e hanno un po' calmato, perché la durata degli album classici, cioè uno dice un capolavoro, Sgt. Pepper, The Beatles, dura 42 minuti. Non c'era bisogno di farlo durare un'ora, chiaramente. I'm saying that a lot of musicians are coming back to shorter records, mm-hmm. because they realize that all the masterpiece from the past, from, you know, Jimi Hendrix or The Beatles or, yep. or Rolling Stones, are 42 to 43 minutes, and you don't need any more than that. I mean, it's perfect. Yes, balanced. So especially for this kind of record, you probably made the right choice. Sì, soprattutto ecco, per un disco con queste atmosfere, direi che la scelta è stata perfetta. Allora, da Fireflies Till They're Gone ci ascoltiamo il brano intitolato Dreaming My Dreams. That I won't be that wrong anymore. That maybe I've learned this time. I hope that I'll find what I'm reaching for. The way that it is in my mind. Someday I'll get over you, but I live to see it all through, but I'll always miss dreaming my dreams with you. But I won't let it change me, not if I can. I'd rather believe in love, give it away as much as I can to those that I'm fondest of. Get over you, and I'll see it all through, but I'll always miss dreaming my dreams with you. See it all through. my dreams with you. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Abbiamo ascoltato questo brano intitolato Dreaming My Dreams, che non è stato scritto da Mary, ma da un grande della musica country, Waylon Jennings, che in Italia magari è conosciuto solo da un pubblico, diciamo, di cultori. In America è un musicista che ha venduto, non so, milioni e milioni di dischi. I mean, in Italy is not very famous, Waylon Jennings, but I know that in US is huge. Yes, especially in the 70s, the outlaw movement with Willie Nelson and sì, specialmente negli anni 70, quando c'è il movimento del country che era chiamato gli outlaw, gli fuorilegge, insieme a Willie Nelson. Why did they call them outlaw? They were not really criminals, right? Non erano dei veri criminali. No, they weren't. They were trying to change something. Yes, in Nashville in the 60s, records were made in a very rigid way, with the record company told the singers the songs to sing and which musicians to play on the records. Like dictatorship. Sì, detto che negli anni 60, io non sapevo questa cosa, le case discografiche a Nashville, che gestivano tutto il mercato della musica country, dicevano ai musicisti le canzoni che avrebbero dovuto suonare e i musicisti che avrebbero suonato nel disco. So the musician was just as executioner, couldn't decide anything. A pretty face. Ah, yeah. Oh, l'importante era che il cantante fosse un bel visetto, insomma. Cioè che... Sì, sì. And the Outlaws were the first to sing their own songs or the songs of their friends. And Waylon Jennings used his own band in the studio, which in the early 70s was something that had never happened before. Really? That's why they also have the cultural idea of an outlaw because of they lived a rock and roll lifestyle, but it's really because of the changes in Nashville. Yeah. Si dice appunto che Waylon Jennings e Willie Nelson decisero di non solo di cantare le loro canzoni o le canzoni dei loro amici, ma anche di andare in studio con la loro band, quindi sovvertirono, per quello li chiamavano appunto i fuorilegge, perché sovvertirono quella che era in pratica una legge lì a Nashville, che costringeva i musicisti dentro una gabbia dorata. So the musicians were basically held in a golden cage. They got money, but no freedom to make their own. Yeah, no artistic art. Freedom. Yeah, and when they started to make their own music with their own band, then they made even more money than when they did what the record company said. Sì, ha detto, of course. Alla fine poi facendo così riuscirono anche a guadagnare di più di quello che succedeva ai musicisti che erano invece legati. È un po' quello che un po' di anni prima succedeva agli attori di Hollywood, che erano legati ad una casa cinematografica e non avevano la possibilità di scegliere i copioni. It's like what happened some year before in Hollywood, when the actors were binded to one company, mm-hmm. and they had no way to choose what movies they had to play in. So it's exactly the same business pattern. Exactly the same, and almost at the same time. It also happened in baseball, in American sports, where at about the same time, the baseball players were, it's complicated, and I know nobody here likes baseball, but a similar thing happened. So it happened in a lot of of businesses at the same time. Entertainment. Si è detto che anche nel mondo del baseball si rende conto che in Italia non sappiamo niente di baseball. Infatti, tutte le volte che vedo una partita di baseball non ho la più pallida idea di chi stia vincendo. Cioè, no, corrono a caso. Vabbè. Però ha detto che anche i giocatori di baseball avevano questo tipo di contratto che li legava praticamente per la vita a una squadra che poteva poi probabilmente venderli o fare quello che voleva. È strano perché noi pensiamo sempre all'America, no? Gli Stati Uniti, il paese della libertà. Yeah, we always think, you know, sì. US, the land of freedom, mm-hmm. And then we found out that these rich and famous people were like prisoners. Sometimes freedom takes a little while. Ah, si è detto qualche volta la libertà ha bisogno di un po' di tempo. So, let's talk again. Parliamo ancora di questo mini album Fireflies Till They're Gone. Adesso ci suonerà una canzone che ha un titolo un po' particolare, My Wife's the Only One Who Knows. Mia moglie è l'unica che sa. Sì. I wrote this song. It's from the point of view of the husband. Si è scritto questa canzone dal punto di vista del marito e sì. And it's common in country songs where the husband is cheating on the wife or the wife is cheating on the husband, and in this song the husband is cheating on the wife and the wife has found out, but she doesn't leave, and so the husband says, why don't you leave? I'm a jerk. I don't understand why you're still here. This is very original. Si è detto che nel mondo della musica country ci sono molte canzoni che parlano di tradimenti, no? Lui che tradisce lei o lei che tradisce lui. Lei ha scritto questa canzone mettendosi nei panni del marito che quando scopre che sua moglie sa che lui la sta tradendo, non capisce perché la moglie non lo abbandoni, perché dice sono un jerk, non vorrei tradurlo con parole che in radio suonano male, ma sono un bastardo, diciamo, sì. Così. Mi sono comportato male, ti serve un termine un po' più scatologico in italiano, e lui a questo punto non capisce perché lei non se ne va, forse a questo punto si rende conto che lei lo ama davvero. So he realized that she really loves him. Is this what you? No. No, non è, no, la mia interpretazione è stata un po'. In the second verse it says, for sad and lonely reasons of her own, my wife's the only one who knows. So he doesn't know why she stays, and uh-huh. Maybe she doesn't either. Because sometimes you get in a relationship and it continues with its own energy. Yes, definitely a lot. Si dice che in realtà non è quello, che a volte lui non capisce perché lei non lo abbandoni e probabilmente neanche lei lo sa, perché a volte in una relazione si va avanti per inerzia, sì. E le cose vanno avanti così perché sono state così prima e nessuno dei due probabilmente ha la forza di fare il passo che significherebbe mettersi di fronte alla realtà fondamentalmente. Allora ci ascoltiamo questa canzone. Do we listen to the song finally? Yes. So my wife is the only one who knows. Mariko Truffello live, ragazzi, ascoltatelo. I have sinned against my God, one who's loved me only for so long. And I understand that weaker men than me have found the courage to be strong. She understands I shame could drive me crazy and that I love her so. But I've betrayed her love a thousand times and still my wife's the only one who knows. But it was never my intention to become the faithless man you see today. But I could not make the longing for those other arms to stop and go away. She understands how shame could drive me crazy and that I love her so. And for sad and known reasons of her own, my wife's the only one who knows. She knows I spend tomorrow in the arms of someone she will never know. Leads me through the darkness in my soul as she and I could never go. But I had hoped I'd find a way somehow to end the shameful double life I lead. But now I've come to realize that ending it killed a part of me. Understands it has to be this way, and that I love her so. I just can't believe that after all this time, my wife's the only one who knows. I just can't believe that after all this time, my wife's the only one who knows. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Bene, siamo qui negli studi di Blu Radio Veneto con Americo Truffello da Minneapolis e Andrea Lupi da Volterra. Sono meno, però in realtà Volterra è più bella di Minneapolis. I mean, Minneapolis sounds like very exotic to us, but I think I don't want to offend anyone, but I think that Volterra is even better than Minneapolis. Volterra? Yeah. Sì. Sounds more. Yeah. Have you been there? No. No. Ah, non è stata Volterra. It's in the middle of Tuscany, nel cuore della Toscana. It's, well, that's pretty good, isn't it? That's the city that you can see from my balcony. Ah. Abbiamo ascoltato questo brano My Wife's the Only One Who Knows, e interessante appunto anche il modo in cui lei ha scritto il testo. È evidentemente un come quando si scrive una canzone blues, si cerca di ripercorrere certi argomenti, o il fatto ad esempio di ripetere la frase due volte, che è un classico del blues. Così nel country le tematiche spesso ritornano, sono la nostalgia di casa, l'amore per la propria terra e queste storie di lui e lei, che però sono sempre molto sofferte. I mean, when you wrote this song, you were trying to be in a path that it's very traditional. It's one of, as far as I know, I'm not an expert. The country songs are about my land, my country, and friendship, and all these stories of man and wife, very complicated, like stand by your man, even right. if he's a jerk. As you said. Yeah, pretty much. Like, stand by your man è una delle più famose canzoni sì. country, la cantarono anche i Blues Brothers, per chi ha visto il film, ed è appunto un pezzo abbastanza anche reazionario, se vogliamo, cioè il fatto che la donna resta con l'uomo anche se lui la tratta male. It's a very old way of seeing things in the family. I mean, the woman is always the one that have to keep the family together, even if he's not the best man. Yes. Anche se lui è un così, non è il miglior uomo che puoi avere, te lo devi, devi cercare di salvare la famiglia. È un po' strano, ecco, che una persona come Mary sia appassionata. It's kind of strange that you wrote songs on this way. It's because you like the style of music, well, or you do really think that it's a proper way to behave in a relationship? No, I don't think it's the proper way to behave in a relationship, but it does happen a lot. Oh, yes. And it's true that in the past, country, this was a major theme of country songs. The modern country, not so much, but the traditional country is very much about this, and I think the reason that those songs are still that we still listen to them is because they speak universal truths about what happens with men and women. Yeah. Si dice, non pensa che questo sia il modo migliore di tenere in piedi una relazione, però sono canzoni che parlano di cose che succedono davvero. Il country moderno, diciamo, i cantanti più giovani hanno cercato di cambiare un po' le cose, quindi affrontano anche tematiche diverse, però queste canzoni classiche del country continuano a essere ancora ascoltate perché raccontano delle realtà, insomma, dei fatti, delle situazioni che esistono davvero. Magari una persona non è coinvolta direttamente, ma conosce qualcuno. Yeah, all in all, even if you're not involved in something like this, everybody knows someone that is living this sì, way. Sì. Sì, un po' tutti è capitato, insomma, di trovarsi in effetti nella situazione di conoscere qualcuno e dire, ma perché questi due stanno ancora insieme? You understand that? Sì, lei, Mary, appunto, è cresciuta in una famiglia mezza italiana, quindi insomma l'italiano un po' lo recepisce, capisce molto, molti significati, non solo le ricette di cucina. E, allora, adesso dunque sto guardando l'orario per fare un po' di conti anche con i tempi. Ci ascoltiamo un altro brano da 35, che ha una bellissima copertina, fra l'altro, volevo dirlo questo. È una foto molto molto semplice, che è di un parco pubblico sotto la neve, ma sì, è molto, non so, dà un'aria di pace, di tranquillità. It's a really peaceful picture. This one, I like it very much. È una, questa neve, was it taken in Minneapolis? Yes, it's in Minneapolis, and it's the last snow of the winter of 2007. Si è detto l'ultima nevicata dell'inverno del 2007 a Minneapolis, saranno 20 centimetri, visto così. Mi diceva che la settimana scorsa a Minneapolis stava ancora nevicando, quindi non possiamo lamentarci dell'infame inverno che abbiamo avuto, perché c'è chi sta peggio. Però il disco però è abbastanza elettrico. The record is very strong, and the cover is much more peaceful. La copertina è molto, dà un'idea più di tranquillità. Because if you play your guitar here, all the snow will disappear. Yes. Sì, come suona la chitarra elettrica, lei la neve si sarebbe sciolta in 5 minuti. Allora ci ascoltiamo questo brano, il cui titolo ancora parla di amore. Still again, love song, I'll still love you forever. Mm-hmm. Ti amerò comunque, ti amerò ancora per sempre. So it's someone that's been left, sì, but cannot accept the truth. This is a story that we all know. Again. A story that everyone anche questa knows. È una cosa, insomma, che conosciamo un po' tutti o che abbiamo visto vivere. Insomma, I'll Still Love You Forever, sempre da Mary Cutrufello, dall'album 35. If you leave, if you go, there's just one thing I want you to know. You'll be inside me for the rest of my life. I won't apologize, and I won't think twice. touch, baby. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. E questa era I Still Love You Forever dall'album 35. Stavamo discutendo qua in studio, stavamo parlando con Mary dell'arrangiamento notevolissimo di questo brano con un uso maestrale delle tastiere, e lei diceva sì, il ragazzino che le suonava, so the guy on the keyboard is 20, it was 20, yeah. Aveva 20 anni quando ha suonato. Sì. Questo qua, e il produttore del disco, che era anche al pianoforte, è un musicista che ha suonato molti anni con Prince, perché Minneapolis è la città di Prince, è una città piena di musica. Minneapolis is full of music, it's very rich. Yes, and well, I mean, it's Bob Dylan went to, he's from the north, but he went to college there. Husker Du, The Replacements, Soul Asylum, The Jayhawks. Sì. Detto che Dylan non è proprio nato a Minneapolis, ma era della provincia di Duluth, appunto, ma fece il college a Minneapolis. Poi ci fu un'ondata del rock indipendente americano con gli Husker Du e Replacement, due band fondamentali degli anni 80. Poi appunto Prince, i Jayhawks, che parlavamo prima, a parte la vicinanza della copertina con la neve, con quella di Hollywood Town Hall. Sono stati un gruppo cruciale nel rinnovare la passione dei giovani americani per il country rock. I think that the Jayhawks took a whole new audience to country rock, because there were a lot of young people listened to them, and they were really balanced between the tradition and the innovation. Erano molto ben bilanciati tra la tradizione e l'innovazione. Quindi sì. Forse perché fa così freddo a Minneapolis, tutti stanno in casa suonando. It's because it's so cold in Minneapolis, everybody stays home playing guitar. Yes. Risposta, avete sentito, molto molto concisa, ma ci ha dato l'idea, insomma. Sì, appunto, parlavamo prima, oggi loro sono arrivati qui, per fortuna hanno trovato Padova in un momento finalmente di primaverile, in particolare Mary si stava godendo un po' la temperatura piacevole. Ha detto che anche loro hanno avuto un inverno veramente duro, ma quello che noi consideriamo duro per loro sarebbe probabilmente all'acqua di rosa, passeggiata. Hanno metri di neve, un posto un po' freddino, però appunto ci si scalda bene quando si va nei locali dove c'è questa bella scena musicale. I'm saying that Minneapolis might be very cold, but it's very warm once you go into the clubs, where there's a very nice music scene. So. There's a nice music scene and everybody is there, so a lot of bodies making the room very warm. Sì, dice anche che i locali sono molto affollati, quindi c'è il cosiddetto riscaldamento animale, lo chiamavamo noi. Allora, adesso andiamo con un altro pezzo dal vivo. What are you going to play next? Well, we talk about the weather in Minneapolis. This is a song about springtime. Okay. And the end of winter. Questa è proprio, visto che stavamo parlando appunto della meteorologia, questa è una canzone che parla della primavera e della fine dell'inverno. Sì. And what's the title, sorry? On a Sunday in March. On a Sunday in March, una domenica in marzo. Sì. Bene, dal vivo Mario Truffello. Well, the river broke up yesterday. Snow is melting in the yard. And the twins are down in Florida. And the days are not so hot. And I made my skinny run this morning. Some wine to get me through. And it's snowing down in Dallas. And I'm still missing you. Well, the tulips think it's over now. I know better than they do. This house has seen 100 winters. 100 springs and summers too. It stands upon this hill so regal. The lumber baron's stately view. And it's snowing down in Dallas. And I'm still missing you. Well, tomorrow there'll be snow again. Oh, and more time for old time's sake. Another old man dead from shoveling. Another car down in the lake. And it's the longest month of winter. It's the saddest month for truth. And it's snowing down in Dallas. And I'm still missing you. So it's snowing down in Dallas. And I'm still missing you. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Abbiamo sentito questa canzone intitolata On a Sunday in March. Qui nel disco c'è anche 55082. It's a zip code. Sì, è un codice postale. Sì, it's for Stillwater, which is a town on the river near Minneapolis. Sì, è il codice postale della città di Stillwater, vicino a Minneapolis. Abbiamo stata eseguita dal vivo qui in maniera magistrale da Americo Truffello, una voce pazzesca la sua, veramente una voce pregnante, scusate l'uso di questi aggettivi un po' così, ma non riesco a trovare niente di meglio. E questi sono i live che vi regala Blu Radio Veneto, ricordiamo, insomma, noi siamo molto orgogliosi di avere il piacere e l'onore di ospitare questi musicisti che ci portano la musica dal vivo, che rende viva anche la radio, insomma, perché ascoltare la musica registrata è bella sicuramente, però avere qua i musicisti in carne ed ossa e sentire la canzone nascere al momento è un'altra emozione. Speriamo che venga trasmessa attraverso le onde della radio, come noi la percepiamo qui in studio. E siamo vicini al fine di questa trasmissione, abbiamo anche cominciato un po' in ritardo questa sera per problemi tecnici che adesso sono finalmente sepolti, risolti. E ci ascoltiamo un altro brano da questo mini album intitolato Fireflies Till They're Gone, che è appunto l'ultima produzione di Mary. Vi ricordo che i suoi dischi sono autoprodotti, quindi li trovate naturalmente ai suoi concerti, se avete la fortuna di poter andare a vedere una delle date che prima Andrea ci ha ricordato, oppure sul suo sito, che è marycutruffello.com. E, insomma, approfittate del fatto che il dollaro, che l'euro miracolosamente è ancora forte nonostante tutti i tentativi che facciamo per andare in rovina, ma insomma comprare i dischi in America è comunque ancora conveniente. Parecchio conveniente. E allora ci ascoltiamo un altro brano, poi chiuderemo la trasmissione con un altro pezzo dal vivo. Questo pezzo si intitola I Just Can't Fall Out of Love With You, è ancora una volta still on the same argument. Yes. Same old troubles. Same old troubles. Exactly. Sempre gli stessi vecchi problemi. Non riesco proprio a mollarti fondamentalmente. Allora ci ascoltiamo questa I just can't fall out of love with you. Scusate, non è un titolo facilissimo. Sempre dalla voce di Mary Cutruffello. Poi ci sentiamo per i saluti e l'ultimo brano dal vivo. The morning comes, finds me here alone. I guess I'm a fool for hanging on. But hanging on is all I know to do. And I just can't fall out of love with you. My friends remind me how you left me here alone to drown in misery and in tears. But somewhere deep in inside, I know it's true. I just can't fall out of love with you. I'm getting tired of throwing good love after bad, but it seems you're only happy. I'm sad. So if it brings you joy, then I'll just stay blue. And I just can't fall out of love with you. Tired seems you're only happy when I am sad. But if it brings you joy, then I'll just stay blue. 'Cause I just can't fall out of love with you. I just can't fall out of love. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, questo era un brano molto tradizionale. Sì. You understand, non ho bisogno di tradurre una parola come tradizionale, con tanto di lap steel guitar, proprio atmosfere. Il bello, diciamo, quello che rende il disco particolare è proprio la voce di Mary, perché magari uno sente l'inizio e si immagina di sentire una voce tipo quella di Willie Nelson o di Waylon Jennings, invece arriva la voce di Mary e crea una discrasia, proprio una sorpresa. Sì. I mean, your voice changes everything. Mm-hmm. It's true. Because in this music the voices, the women are always singing very high. Yes. Le donne cantano sempre molto, molto alto, e gli uomini spesso sono molto confidenziali, no? Cercano di creare questa atmosfera. E invece lei ha questa voce che comunque è sempre rock, blues anche. È bello il fatto, perché in un certo senso, almeno un po' di anni fa, insomma, un appassionato di musica country non aveva mai ascoltato un disco blues. No, I mean, in the old times, not too old, but a few decades ago, someone that is fond for country music would have never listened to a blues record. Right. Yeah. No, that's true. But your voice is always bluesy. Yeah. it's you know, I sing, and what comes, I sing what I feel. Yes, of and, course. You know, I mean, I love the country music, and this is my way of singing it, but yes, people hear the blues in my voice a lot. Si dice, appunto, lei canta questa musica perché le piace, che la canta nel modo in cui le viene naturale, però sì, le dicono sempre tutti che si sente molto blues nella sua voce, ma insomma penso sia naturale. Un'osservazione un po' banale, ecco, non credo di aver fatto una grande scoperta, però è bello perché questo permette di dare una nuova vitalità a suoni e melodie che sono molto tradizionali. It's very nice because it gives a new life to a traditional way of playing. So it's a very good experiment that you do this. Oh, thank you. Mi chiedo quale sia il pubblico per questa. I'm asking myself what kind of audience did you get with this? Because here in Europe probably is easier because many people don't know that there's such a big separation between the two worlds in the USA. Yes, but back home maybe it's more difficult. Yeah, that's very true. Here in it's nice to come to Europe because it's all American music. Sì, dice, appunto, dicevo che magari in Europa per noi questa distinzione che io ho fatto, diciamo che, insomma, io l'ho citata anche perché ho letto molte cose a proposito, insomma, mi sono fatto un po' di cultura. Per molte persone non è una cosa così risaputa. E lei mi ha risposto che in effetti per lei è bello venire in Europa perché nessuno fa queste distinzioni. La sua è musica americana, American music. E dall'esterno le differenze si riducono sempre. Quando sei dentro, come qua da noi, che vabbè, voi siete, sto guardando Andrea in questo momento in Toscana, fra Pisa e Livorno sembra che ci siano 5.000 chilometri a parlare con i locali. Già da per un veneto distinguere un pisano da un livornese è quasi impossibile. I mean that when you get closer the differences looks bigger. Yes. When you look from the outside it's almost so, nothing. Yes. A friend of mine once told me that he is American, mm-hmm. and he said that he cannot see many difference between Italians and French people. For us, un amico americano mi disse una volta che per uno che viene dagli Stati Uniti non riesce a vedere molta differenza tra gli italiani e i francesi. Una cosa che suscitò alcune polemiche, diciamo. Ma lo immagino. Perché da lontano si vedono più le cose che si assomigliano che quelle che fanno la differenza. E lui ha detto, scusa, voi italiani, voi francesi, siete tutti quanti pazzi per il vino e il cibo e il calcio. A quel punto, devo ammettere, ero abbastanza privo di argomenti, perché insomma, andare a distinguere fra i formaggi duri da grattugiare e quelli morbidi da cucchiaio è un po' da pignoli. Yeah, for me, even my last name, Cutrufello, is from Sicily. To me, it just sounds Italian. Yeah. And in at home in America, it's just it's Italian. I think. Yes, for us is a name from the south. But I come over here and everybody says, "Oh, from the south." Yeah. How do you know that? Sì, appunto, ecco, la riprova me l'ha data a Mary dicendo che negli Stati Uniti quando lei dice Cutrufello dicono è un nome italiano. Noi quando sentiamo Cutrufello diciamo è un nome del sud, chiaramente, perché si sente che non è certo la Val d'Aosta Cutrufello. Bene, allora stiamo per chiudere questo appuntamento con Rockwave, con Mary Cutrufello qui dal vivo, accompagnata da Andrea Lupi, che è una nostra ormai vecchia conoscenza, sempre benvenuto comunque. E, ci ascolteremo adesso un'ultima canzone per augurare la buonanotte. Prima naturalmente voglio ringraziare Jill per la regia, nonostante anche le avversità tecniche che sono state superate per fortuna. Ringrazio naturalmente Mary per essere stata con noi ancora una volta. Ringrazio Roots Music che l'ha portata in Italia ancora, sì. Associazione di Ferrara che fa un lavoro assolutamente straordinario, encomiabile per la musica, per i musicisti di valore. Guardate il loro sito, tenete d'occhio le loro iniziative, perché hanno un'attenzione per la qualità e per i prodotti, per i musicisti, per la musica di valore. Non guardano le mode, non seguono le apparenze, ma la sostanza. Quindi quando qualcosa è portato da loro potete stare tranquilli che se andate a vedere uno spettacolo tirato su, diciamo organizzato da loro, passerete una grande serata di buona musica. E quindi ringraziamo ancora Paride, Erika e gli altri di Roots Music. And thank you again for you, Mary, to be back here, and I hope that this will happen again in the future with your next record or whatever. You're always welcome here. Thank you, Stefano. It's always nice to be here. Thank you very much. Well, what's the last song? We play Sonic Girls. Sonic Girls, la canzone con cui Mary Cutrufello e Andrea Lupi ci augurano la buonanotte, vi auguro la buonanotte anch'io, Stefano Dainese, grazie per l'ascolto, ricordatevi la sintonia fissa su Blu Radio Veneto e buonanotte a tutti. Andrea mi ricorda che domani sera suonano a Milano, per quelli che ci ascoltano in streaming magari, a Milano al Nidabatiater, bene. Via Gola. Ok, anche diamo anche l'indirizzo con Tonton. Bene, buonanotte a tutti e grazie specialmente a Mary Cutrufello. Questa è Sonic Girls. 1, 2, 3, 4. Hey now, babe, where you going tonight? When he picks you up, everything's gonna be alright. And he's waiting at the drive-in, yeah, with a six-pack beer. And he climbs in the car and he squeezes your arm. So let's get on out of here, darling, yeah. And Sonic Girls around the world, everybody knows Sonic Girls all around the world. Everybody knows where the summer goes. Yeah. Lay down, baby, on the passenger side. You drive up to Memphis, yeah, just to see the bright lights. And in a Motel 6, yeah, across the Arkansas line. Yeah, you try out a few things and learn some new things, and you live it up for a while. And the sign of girls around the world, everybody knows. The sign of girls all around the world, everybody knows where the summer goes. Summer goes, yes, yeah, summer goes, baby. And you try and make it forever, but you settle for just right now. You try and make it forever, but soon it lies in pieces, and you head back home to your little town. Hey now, babe. Oh, you're lying alone. Sleep on the porch as another Gulf storm blows. And you're back at the drive-in for another year. And it's late September, and still you remember what it whispered in your ear. No, sign of girl. Around the world, everybody knows. Sign of girls all around the world, everybody knows where the summer goes. Summer goes, yeah, summer goes, baby. Well, summer goes, yeah. Everybody knows where the summer goes. Everybody knows, everybody knows, everybody knows where the summer goes. Everybody knows, everybody knows, everybody knows where the summer goes. Everybody knows, everybody knows, everybody knows where the summer goes.